versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo giovedì 24 settembre, auguri che si chiama Pacifico, oggi è San Pacifico e siamo in diretta alle 16.31, primi 21 secondi dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia e vi introduce subito l'argomento del giorno con due premesse. Chi ha letto Repubblica oggi ha trovato conferma di quello che dicevamo ieri nella trasmissione dedicata alle vicende, tra virgolette, scandali. Questa è una mia definizione, di due concessionari stradali e autostradali nel nostro paese. Abbiamo parlato della Brebemi e dell'autostrada del Brennero e trovate in due pagine su Repubblica confermate e rilanciate i profondissimi dubbi che noi abbiamo sollevato ieri. Vedremo di tornarci perché ho visto che sono arrivato un mucchio di mail, sono arrivate anche, lo dico per correttezza, le mail alle richieste degli amministratori delegati delle società di cui abbiamo parlato ieri. Quindi ci dovremo tornare sopra su questo nodo dei concessionari, quindi lo dico per correttezza e non per escludere dall'intervento coloro che sono la testa della società di cui abbiamo parlato. Noi abbiamo parlato del meccanismo, delle convenzioni segretate e del fatto che poi paga il contribuente, questo non ci piace. Ma ne riparleremo. Seconda osservazione è sullo sviluppo della crisi dell'auto per la vicenda Volkswagen esplosa a inizio settimana. C'è questa buona notizia perché oggi Fiat Chrysler ha confermato per l'Italia 1 milione di auto prodotte nel nostro paese nel 2016. È una buona notizia perché se andiamo a vedere anche i comunicati stamattina dell'Istat, ma insomma quelli dei primi due trimestri dell'anno, in realtà l'auto è la componente essenziale della ripresa della produzione industriale e degli investimenti industriali. È l'unico settore con crescita a doppia cifra. È una crescita sia per l'aumento della produzione degli stabilimenti Fiat in Italia, sia per gli investimenti ovviamente, sia per tutto il settore, concessionari e tutto il settore dell'automotive, e sia per l'export perché si produce roba che si esporta. Quindi detto che è una buona notizia, sia pur presa con le pinze come sempre quando Marchionne annuncia dei numeri, volevo contestualizzarvela però per capirci, perché con 1 milione di auto riprodotte in Italia, vedremo, speriamo di sì, nel 2016, noi torniamo al 1963, per capirci, nel 63 si superò per la prima volta il tetto del milione di veicoli e non tornammo sotto questo tetto fino al 2007 nel pre-crisi. Quindi è vero, con 1 milione di auto nel 2016 batteremo l'ultimo anno prima della crisi del 2008, dove erano circa 917.000, ma saremo ai livelli del 1963. Pensate che come livello di autovetture prodotte in Italia, quello del 2014, 410.000, eravamo tornati indietro al 1900, indovinate quanto, 58. Ecco, questo per dare l'idea di quanti decenni dobbiamo recuperare, pur essendo contenti ovviamente che la produzione riprenda, però se storicizziamo, il gap da colmare resta quello di decenni. Il record del 1989, quello di quasi 2 milioni di auto prodotte nel nostro paese, secondo me è difficile che lo rivedremo finché campiamo, speriamo di sì ovviamente, però è un record che già 10 anni dopo, nel 97, eravamo ancora sopra il 1,5 milioni di auto prodotte, poi cominciò con gli anni 2000 la crisi Fiat e scendemmo fino al 2007. Questo è lo storico dell'auto nel nostro paese, ma è una crisi, come avrete capito, ben lontana dall'aver sprigionato ancora tutti i suoi effetti negativi, questa della Volkswagen, dei diesel, delle truffe sulle emissioni. È una crisi molto molto seria. Domani c'è il consiglio di amministrazione di Volkswagen, vedremo cosa decideranno, però intanto è una crisi serissima. E andiamo invece all'argomento della giornata. Questo è un argomento che riguarda tutti i lavoratori dipendenti innanzitutto e i commercialisti. Io mi auguro che qualche commercialista si faccia vivo chiamandoci l'800240024 e mandandoci, se non può, le sue opinioni sul tema che ora vi introduco, al 34923866666 con gli sms. Di che cosa parliamo? Parliamo di io la definisco una struttura inaccettabile, però sentiremo cosa ne pensano gli esperti nel nostro paese, che riguarda i rapporti, per quello che riguarda i lavoratori dipendenti, con l'impresa che, come sapete, nel nostro paese ne raccoglie le imposte sul reddito dei suoi dipendenti e li gira allo Stato, è il cosiddetto sostituto d'imposta, che è il principio sul quale va avanti il lavoro dipendente nel nostro paese. Allora, che cosa capita nel nostro paese? Capita che i rapporti nei confronti del fisco tra il sostituto d'imposta, l'impresa, e il sostituito, come si chiama in gergo tecnico, cioè il lavoratore, dovrebbero restare comunque distinti, no? Se non che anni fa, non troppi anni fa, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha detto, beh, distinti mica tanto, l'ha detto la magistratura, quindi è un'evoluzione di giurisprudenza, non sta scritta con questa chiarezza nelle norme. Nella realtà, di fronte allo Stato e all'amministrazione tributaria, il sostituito, cioè il lavoratore dipendente, e ha molti tratti nei quali è corresponsabile in solido con il sostituto, con l'impresa. Molto scivolosa questa faccenda, perché, come potete immaginare, primo, ma se l'impresa paga gli stipendi ai suoi dipendenti e non gira allo Stato la trattenuta fiscale sul reddito dei dipendenti, essendo sostituto d'imposta, è giusto che a quel punto lo Stato lo chieda ai dipendenti? E soprattutto, se capita poi che l'impresa, perché è andata male, perché è entrata in concordato, perché è andata in fallimento, le retribuzioni ai suoi lavoratori dipendenti non le ha neanche pagate, allora a quel punto è ammissibile che lo Stato chieda su retribuzioni non pagate ai lavoratori dipendenti da parte dell'impresa anche le imposte che l'impresa, che non ha pagato le retribuzioni, non ha dato allo Stato? Ecco. Noi parliamo di questo oggi perché, a quanto pare, incredibilmente, la cosa avviene nel nostro paese. Cioè l'Agenzia delle Entrate chiede al lavoratore dipendente, a cui non è stato corrisposto dalle loro imprese, da cui erano dipendenti, il salario, chiede a quelli che non solo hanno avuto il salario, anche con azioni personali, a loro l'arretrato delle imposte che l'impresa non ha pagato su salari che non aveva pagato. Non so se sono stato chiaro, a me sembra una cosa pazzesca, però vediamo se ho capito e succede davvero. E però segnalatecelo anche voi, cari commercialisti che siete in ascolto, o cari lavoratori che siete in ascolto, se avete ricevuto atti, iniziative e cartelle richieste da parte dell'Agenzia delle Entrate, o magari già diventate esecutive con Equitalia, che si riferiscono a questo. Stiamo parlando quindi dei casi di corresponsabilità in solido tra imprese e dipendenti sulle trattenute fiscali relative al reddito dei dipendenti, e la sentenza che vi ho richiamato prima è una sentenza della Corte di Cassazione, il cui numero è 23121, ed è una sentenza del 2013. Ad avermi segnalato questa faccenda è appunto un commercialista che è con noi, grazie della segnalazione, di aver accettato di parlarne in pubblico, Nicola Loconte, buon pomeriggio. Salve, salve. E a tentare di capire come stiano le cose dal punto di vista normativo, delle possibili impugnative, oppure se de plano ha ragione l'Agenzia delle Entrate, se così si sta comportando, c'è il nostro luminare di diritto tributario, uno dei due che utilizziamo sempre in alternativa a Raffaello Lupi, lo sapete, noi chiamiamo Dario Stefanato, che sia diritto tributario all'Università di Trieste. Grazie professor Stefanato di essere grazie con noi. Buongiorno. Allora, Nicola Loconte, che cosa succede in concreto e di che cosa a cognizione diretta tramite suoi clienti che le sono venuti a segnalare, guarda cosa mi chiede l'Agenzia delle Entrate? Ci stanno presentando, cioè, l'altra mattina si è presentata una persona, era un dipendente di un'azienda che purtroppo è fallita nell'anno 2013 e negli ultimi sei mesi non ha percepito né TFR né stipendi, e si è visto recapitare questo bello avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate che richiamava proprio questa sentenza della Corte Costituzionale che lei già, che lei ha preso, cioè che lei ha detto. La 23121 del 2013. La 23121. In realtà io ho chiamato il curatore fallimentare. E quindi è vero che l'Agenzia delle Entrate chiede imposte non versate da aziende, anche se quelle aziende non hanno neanche versato le retribuzioni ai lavoratori dipendenti. Certo, ma è capitato anche a me come professionista. Cioè, io come professionista ho ricevuto una cartella dall'Agenzia delle Entrate, che ho risolto fortunatamente una settimana fa, per quanto riguarda le tonnellate d'acconto versate dal sostituito, sì. Ma il sostituito aveva dimenticato di fare il 770. Ora l'agenzia delle entrate rivoleva da me queste ritenute a conto che erano state da me scomputate in dichiarazione, parliamo di una dichiarazione del 2012. Ho fatto istanza di autotutela, ma soprattutto ho dovuto fare il pazzo all'agenzia delle entrate, perché la cosa è proprio palese. L'agenzia delle entrate non può punire in questo caso il sostituito perché il sostituto ha dimenticato di fare il 770. Questo qua per quanto riguarda i professionisti. Per quanto riguarda invece i dipendenti è una cosa aberrante, perché si sancisce in realtà una responsabilità solidale che nella legge non si trova, ma viene soltanto sancita grazie ad un'interpretazione. Quello che io vorrei dire agli ermellini... Ma secondo lei, nella sua professione, perché la sua professione obbliga ovviamente ad avere contezza della giurisprudenza che si accumula in maniera a fianco delle circolari, che sono l'atto oramai col quale noi facciamo normazione di adempimento fiscale, altro che la riserva assoluta di legge che c'è in Costituzione, c'è la giurisprudenza fiscale che ovviamente per chi fa il suo mestiere, direttore contabile commercialista, è ovviamente necessario conoscere. Se chiedessi a lei, dottor Lo Conte, l'interpretazione che lei dà della sentenza della Corte di Cassazione, la 23/121/2013, è che questa corresponsabilità in solido del lavoratore dipendente con l'impresa può davvero essere estesa anche al caso in cui l'impresa non ha pagato nemmeno il salario su cui poi non ha versato le imposte trattenute del lavoratore dipendente all'Agenzia delle Entrate? La sentenza della Corte Costituzionale non prende in esame il fatto se gli stipendi siano stati o meno pagati. Esatto. La Corte Costituzionale prende come punto di riferimento il fatto che c'è questa responsabilità solidale tra il sostituto e il sostituito. Il fatto che non siano stati pagati gli stipendi, cioè, è una cosa che non viene per niente menzionata all'interno della... E l'Agenzia delle Entrate a quel punto dice: oh, siete corresponsabili, lo dice la Corte di Cassazione, e agisco. Perfetto. In primo e in secondo grado ci sono delle sentenze che danno ragione al sostituito. Però l'Agenzia delle Entrate, in virtù di questa sentenza, sta portando i processi tutti in Cassazione. Mm. Ora, e quindi a quel punto magari chi assiste il sostituito, cioè il lavoratore, gli dice: senti, qua invece di aspettare anni paga. Perfetto. È così? Allora, il discorso è molto semplice, perché io ho chiamato il responsabile del fallimento, il curatore fallimentare dell'azienda, e mi ha detto: dovete fare ricorso, dovete andare in commissione. Ora, se il dipendente in questo caso mi chiede cosa mi dice, lei professionista, cosa mi chiede cosa mi dice di andare in commissione oppure no, allora io che cosa le devo dire? Per prima cosa, per andare in commissione bisogna posare sul piatto dell'Agenzia delle Entrate un terzo dell'imposta. È noto questo, quindi, sì, che funziona. Diciamo che la cartella è di 5.000 euro, ok? Sì. Poso questo terzo, vado in primo grado, vinco, vado in secondo grado, vinco, in terzo grado non ci posso andare perché purtroppo la Costituzione non mi dà la possibilità di andare in Cassazione, quindi il dipendente dovrebbe andare da un avvocato, va in commissione, cioè in Cassazione, se siamo fortunati perché troviamo un giudice che la mattina magari si è alzato bene, ci dà ragione. Tutto questo però non prevede una cosa importante, cioè che il mio lavoro, il lavoro dell'avvocato cassazionista, dovrebbe essere gratis. Allora, certo. Se lei si vede arrivare una cartella, un avviso bonario di 3.000 euro, cosa fa? Paga oppure va in commissione? Allora, lei ci conferma che l'Agenzia delle Entrate lo fa, che la sentenza della Corte di Cassazione non entra nel merito, però definisce, per così dire, un principio di ordine generale che anche se entrasse nel merito, anche se la sentenza della Corte di Cassazione facesse questa differenza tra... cioè persone che hanno avuto lo stipendio e persone che non hanno avuto lo stipendio, è una cosa altrettanto aberrante. No, questo non c'è dubbio, però siccome non possiamo pretendere che chi ci ascolta sia versato nell'interpretazione o nella conoscenza diretta delle norme tributarie, stavo sintetizzando. Allora, professor Stevanato, ricominciamo da capo. Questa sentenza della Corte sul principio generale della corresponsabilità tra sostituto e sostituito, primo, esonda rispetto a quello che c'è nelle norme prescrittive, esplicite, oppure no? E poi, secondo, cosa possiamo dire agli italiani che ricevono avvisi bonari delle agenzie delle entrate anche in caso di imposte non pagate dalle aziende che non hanno pagato però neanche la retribuzione? Perché sentendo il commercialista a cui è capitato proprio ieri il caso, ovviamente al più di coloro a cui capita viene detto: ti conviene pagare comunque, perché tanto che vuoi farci? Ma è pazzesca questa condizione. Allora, io intanto lo chiedo al professor Stevanato, ci abbiamo 60 secondi di informazione stradale e poi cedo la parola a lui per ricominciare da capo e far capire a chi a casa se davvero è accettabile di vivere in un paese in cui il diritto tributario funziona in questa maniera. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta, 16:47 primi 28 secondi. Stiamo parlando di casi che avvengono, sono documentati, di lavoratori che vengono richiesti dall'Agenzia delle Entrate con avvisi bonari l'arretrato di imposte relative ai loro redditi non versati dalle imprese che, come sono sussidio d'imposta, non devono versarli, ma anche nel caso in cui le imprese non avevano versato loro neanche le retribuzioni, cioè il reddito relativo alle imposte che l'Agenzia delle Entrate dice no, me la devi dare tu, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce il principio della corresponsabilità in solido del sostituto, che sei tu, caro lavoratore, rispetto all'impresa che è il sostituto. La mia opinione è che bisognerebbe vivere in un ordinamento nel quale le eccezioni rispetto a quelle che la norma generale individuano il vero debitore fiscale dovrebbero essere precisamente individuate per legge, non fatte evolvere dalle sentenze dei magistrati e interpretate liberamente ancora di più dall'Agenzia delle Entrate. Ma può essere che io mi sbagli. Professor Stevanato, lei cosa dice? Allora, dunque, bisogna distinguere due tipi di sostituzione, per capire, diciamo, un po' meglio di che si tratta. Ci sono due tipi di sostituzione. La prima si chiama sostituzione a titolo di imposta, l'altra a titolo di acconto. Lasciamo un attimo da parte la prima, quella a titolo di imposta, che riguarda fattispecie quali ad esempio la corresponsione dei redditi finanziari, ad esempio un interesse che matura sul conto corrente di un cittadino, viene tassato alla fonte a titolo di imposta. Che significa a titolo di imposta? Che il prelievo fatto dal sostituto esaurisce ogni obbligo, cioè chiude il rapporto col fisco, non solo tra sostituto e fisco, ma anche tra sostituito e fisco, cioè sono le cosiddette cedolari secche. Viene fatta la ritenuta, viene versata, tutto finisce lì. Il caso invece che rappresenta il commercialista che era prima in linea riguarda le fattispecie che sono quelle poi più comuni, il ritenuto a titolo di acconto riguarda non solo i dipendenti, ma anche ad esempio le parcelle pagate ai lavoratori autonomi e così via. Allora, come funziona in questo caso? Allora, il sostituto deve fare una ritenuta nel momento in cui eroga il compenso, in questo caso il reddito di lavoro dipendente. In questo caso però fa la ritenuta e la deve ovviamente versare all'erario. Questo primo rapporto tra sostituto ed erario non chiude definitivamente la vicenda, perché il sostituito, che percepisce in questo caso lo stipendio, in un ambito come il nostro con l'IRPEF progressiva, deve liquidare in dichiarazione qual è l'imposta complessivamente dovuta su tutti i suoi redditi. Può accadere che lui abbia altri redditi oltre a quelli di lavoro. Quindi la ritenuta in questo caso, appunto funziona come un acconto delle imposte che poi saranno dovute a saldo dal dipendente. Il quale che cosa deve fare da parte sua? Deve alla fine dell'anno presentare la dichiarazione, dichiarare tutti i redditi, liquidare l'imposta complessivamente dovuta e scomputare l'importo delle ritenute subite. Ora, il caso principale che evidenzia il commercialista, che è anche quello toccato dalla sentenza della Cassazione, è quello in cui il datore di lavoro o il sostituto in genere ha operato la ritenuta, ma non l'ha versata. Ora, andare in questi casi a chiedere i soldi della ritenuta al sostituito è privo di senso. Perché il sostituito l'ha subita la ritenuta, cioè ha ricevuto un compenso al netto di quella ritenuta e la legge gli ha imposto di dichiarare comunque il reddito e di poter scomputare la ritenuta. Per lui è indifferente che la ritenuta non sia stata versata dal sostituto, quello che importa è che sia stata operata. Quindi in un caso del genere non esiste alcuna solidarietà tra i due, e la Cassazione si sbaglia, perché pretende di estendere un caso particolare che è regolato dalla legge e riguarda l'altra fattispecie di ritenuta, cioè quella a titolo di imposta, in cui è previsto che se la ritenuta non è operata e non è nemmeno versata, quindi è un caso totalmente diverso, parliamo di ritenute non fatte e non versate in caso di sostituzione a titolo di imposta. Ecco, solo in quel caso scatta un'ipotesi di solidarietà, ma è comprensibile che sia così. In un caso del genere il sostituito non l'ha subita la ritenuta, cioè ha ricevuto un compenso all'ordo, e quindi è giusto, anche se vogliamo, che il fisco possa chiedere direttamente a lui l'imposta dovuta. Nel caso invece che raccontavate prima, su cui si è soffermata la Cassazione, c'è c'è un'indebita estensione al sostituito di un obbligo di fare di versare la ritenuta che gravava soltanto sul datore di lavoro, corrisponde una doppia tassazione, perché certo. O comunque di un impoverimento a titolo definitivo del dipendente che in un primo momento ha subito la decurtazione della ritenuta, e in un secondo tempo gli viene chiesto un importo che sarebbe a questo punto per lui molto difficile recuperare dal datore, soprattutto nei casi in cui il datore a sua volta è fallito o comunque esatto. insolvente. Perché in questo caso oltretutto non ha neanche ottenuto il reddito decurtato del lordo da parte del sostituto, cioè dell'impresa. Tuttavia, una volta acquisito, che il professor Stevanato dice, la Corte si è sbagliata. È incredibile questa estensione del principio della corresponsabilità del sostituto e sostituito. L'Agenzia delle Entrate, che però queste cose le chiede, perché manda gli atti, in questo caso resta, per così dire, lecito e legittimo quello che fa, pur alla luce di un'interpretazione di un giudizio che noi diamo negativo di quella sentenza della Cassazione, oppure a quel punto il consiglio che dobbiamo dare è impugnate tutto e comunque, perché comunque resta aberrante anche la richiesta dell'Agenzia delle Entrate. Che dice Stevanato? No, io dico che la richiesta è legittima, di là che ci sia una sentenza o anche più sentenze che dicono illegittima è e resta. Illegittima è certo, perché il diritto tributario è regolato dal principio di legalità. Esatto. Se una sentenza enuncia un principio sbagliato, non è in un paese normale, diciamo così. Posso aggiungere una cosa, cioè, un'altra fattispecie che appare ancora più aberrante e su cui io dubito che possa, cioè, se succede veramente siamo cioè, non saprei nemmeno come commentarla. Cioè, l'obbligo della sostituzione nasce soltanto nel momento del pagamento dello stipendio o del compenso. Qua siamo in presenza di stipendi non pagati. Esatto. Non è credibile, non è plausibile che l'agenzia possa andare. Io credo che qui ci sia un equivoco, cioè non posso pensare che l'agenzia arrivi a tanto, perché veramente sarebbe una cosa non commentabile. Posso fare una domanda a Nicola Conte, il commercialista? Ma lei l'Agenzia delle Entrate territoriale l'ha contattata, ha detto, ma voi siete sicuri di quello che state facendo? Vi rendete conto che qua siamo un lavoratore che non ha neanche visto i soldi delle retribuzioni? Allora, io ho contattato l'Agenzia delle Entrate, mi sono recato sulla persona per quanto riguarda proprio dal responsabile del procedimento, che sarebbe uno degli ultimi, una persona che non fa parte dell'area controllo. Sì. Allora, sono andato lì e lui mi ha detto, io purtroppo devo seguire quelle che sono le direttive della direzione regionale. La direzione regionale, anche in assenza di retribuzione, dice, gli dobbiamo chiedere le imposte non versate dall'impresa, così le ha detto. C'è stato il caso di un operaio, presentato. No, ma adesso il caso dell'operaio non c'è, ma veramente questo le ha detto? Sì. Sì, le ha detto questa cosa qua. Allora, se le ha detto questo, io ci credo, purtroppo se no non ce l'avrebbe segnalato. Grazie a Nicola Conte, grazie al professor Stevanato, ma il mio commento resta chiaro. E resta questo: uno Stato che chiede le imposte non versate dalle imprese, che non hanno neanche versato però le retribuzioni ai dipendenti, merita un unico commento. Questo! Basta! Basta! Basta! Ecco, continuate su Radio 24 e viva un fisco un pochino più intelligente e civile. Appuntamento con me a domani.